Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Erano le 15, ormai ero imbarcato sulla nave da quasi 4 mesi. Come sempre, dopo le 2-3 ore scarse dormite la notte precedente, mi accingevo a riposare la solita ora e mezza pomeridiana, prima di riprendere il turno in sala. Mi chiamo Massimo, abito a Caronno in provincia di Varese, vivo con due splendidi gatti, mi occupo della vita di antinfortunistica. Era l'inizio di una calda estate, un lunedì, e mi trovavo in osservanza alla burocrazia in un ufficio postale per ritirare un plico. L'ufficio era piccolo rispetto alla stragrande numero delle persone in attesa, uomini e donne accalcati e sudati. La maggior parte di questo pubblico era costituito da anziani, come me, taluni addirittura di aspetto vegliardo. Era quello, infatti, il giorno del pagamento delle pensioni. Mi chiamo Maria Teresa Borsò, ho 80 anni e vengo da Roma. La mia storia racconta di come le storie possono salvarci la vita, o anche solo un pomeriggio alle poste. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 in punto. Cominciava così l'anno scorso il live di fine anno di Voi Siete Qui con questa intro alla storia letta, raccontata dalla viva voce di Maria Teresa, che era la primissima ospite autrice sul palco del live. L'avevate sentito durante l'anno e insieme a lei c'erano altri 9 autori che erano arrivati apposta a Milano per raccontarci le loro storie. Quest'anno il live sarà il 26 di giugno, sarà sempre un giovedì come facciamo ormai da sempre per evitare il weekend in cui magari la gente se ne va o non è disponibile. È il 26 di giugno alle 21, sempre qui in via Monterosa 91 nella sede di Radio 24. Per iscriversi, e ve lo ripeto perché in realtà mancano più di 2 settimane, ma non mancano tantissimi posti a disposizione, me l'hanno detto prima le splendide ragazze del marketing di Radio 24. Se insomma avete in mente di venire, forse vi conviene andare sul sito e cominciare a iscrivervi, a compilare il form e inviarlo immediatamente all'indirizzo che è segnato sotto. È molto semplice, radio24.it, scalate un po', scalate, sulla sinistra c'è un boxino con scritto Voi Siete Qui Live, ci cliccate e andate a iscriversi direttamente. Veniamo ad oggi invece, perché oggi sono le 16:11 ed è un mercoledì. Ho avuto un attimo, Rudy. Ho avuto, sai, proprio. Oh, guardavo l'orologio con la data. È l'11 di giugno, è mercoledì 11 di giugno. E come ogni giorno, noi raccontiamo una storia. La storia che raccontiamo oggi è la storia di Massimo. Ed è la storia di quando non capita, fortunatamente, a tutti nella vita. O meglio, capita, ma non tutti arrivano a delle cose così estreme come quelle che fa Massimo. Capita, però, delle volte di perdere la testa. Cioè, a un certo punto, mia nonna diceva: ti arriva il sangue agli occhi e vedi nero. Lui proprio usa questa espressione. A un certo punto ho visto nero e gli sono andato addosso. Insomma, non bisogna per forza finire in cella e non bisogna per forza diventare violenti, però se vi è capitato una volta veramente di avere esagerato e di essere andati fuori misura e un po' fuori di testa, oggi è la puntata per voi. 349 238 6666. Sul profilo Facebook Stefano ha già scritto: in un torneo di calcetto all'università, dopo un'intera partita dove un centravanti mi aveva continuato a provocare con continue gomitate, sono scoppiato, ho preso la rincorsa e con una spallata l'ho scaraventato a terra. NB, sono la persona più tranquilla del mondo, mai ammonito o espulso in vita mia. L'arbitro non ha visto nulla per fortuna e il tipo si è calmato. 349 238 6666. Se avete mai perso la testa, oggi è la puntata per voi. Mi ero imbarcato sulla Royal Princess a New York in una caldissima giornata di settembre. Il giorno prima ero salito per la prima volta su un aereo, un Boeing, e mi sembrava enorme. Da Milano Malpensa, destinazione appunto New York. E se già l'aereo mi sembrava immenso, quando vidi la Royal Princess rimasi a bocca aperta. Una città galleggiante che tra equipaggio e passeggeri sfiorava le 3.000 persone. Tralasciamo il modo in cui riuscii a superare i vari colloqui lavorativi a chiasso, visto che fare il cameriere non era certo il mio lavoro e il mio inglese era a livello di The Book is on the Table. Ma tant'è, ero lì. E quando hai poco più di 20 anni hai la faccia per fare e per dire qualsiasi cosa. Bisogna ovviamente fare un colloquio di lavoro, io l'ho fatto in Svizzera, solo che la cosa ridicola era che fondamentalmente questo mio amico mi ha spinto, mi ha detto: tu vai al colloquio perché tanto la persona che c'è lì da anni chiede le 3 stesse cose a tutti senza neanche guardarti in faccia. Infatti mi ha chiesto esattamente le cose che mi diceva lui, io ho risposto come un registratore. I primi giorni furono piuttosto difficili. La nave era un labirinto e gli orari di lavoro massacranti. Aggiungiamoci poi che una persona che lavora dalle 12 alle 16 ore al giorno tutti i giorni del contratto lavorativo dovrebbe cercare di dormire almeno 6 ore per notte, e invece a 22 anni la notte non era fatta per dormire. Si finiva il turno alle 22.30, a volte alle 23.55. Si cenava e si iniziava il divertimento. Diciamo che si dormiva 2-3 ore a notte e un'oretta al pomeriggio. Quel giorno erano le 15. Ormai ero imbarcato da quasi 4 mesi. Come sempre, dopo quelle 2-3 ore scarse di dormite la notte precedente, mi accingevo a riposare la solita ora e mezza pomeridiana prima di riprendere il turno in sala. Quel giorno niente terraferma, quindi non si dormiva in spiaggia con la sveglia, perché quando la nave salpava non si faceva certo l'appello per vedere chi non era ancora rientrato. No, si dormiva in cabina. Mi spogliai, rimasi in boxer, ma prima di stendermi sul letto, la musica neomelodica sparata ad un volume tipo discoteca Capodanno, che proveniva dalla cabina di due messicani, mi fece capire che riposare sarebbe stata molto dura. Uscii, passai la prima cabina ed entrai nella seconda, che aveva la porta spalancata. «Ehi, amigos, por favor, quiero dormir, puede bajar el volumen?» «Ma sono le 3!» fu la risposta piccata del messicano, ovviamente in messicano. «Ok, allora chiudo la porta», dissi io, questa volta in italiano. Uscii chiudendola in maniera un po' troppo energica. Il messicano la riaprì rapidamente e mi urlò «Chinga tu madre, pinche pendejo!» Mi fermo, divento di pietra e vedo il buio. Sarà stato lo stress accumulato per mesi per le moltissime ore lavorative, sarà stato per via delle poche ore dormite in 4 mesi, sarà stato per via dell'insulto alla mamma che per noi italiani è un po' come la Madonna, ma bastarono quelle parole a farmi vedere solo nero. Mi giro, entro nella sua cabina, lo tiro fuori e lo sbatto al muro. «Mi madre? Mi madre?» gli dico. Primo cartone sotto l'occhio. Cade come un sacco di patate. Gli salto addosso e tento letteralmente di strozzarlo. Volevo strozzarlo e senza dubbio ci sarei riuscito. Per mia immensa fortuna, quelli che avevano assistito alla scena, attirati dal tono alto della discussione, mi tirano via di peso mentre il volto del messicano cambiava le tonalità, che andavano dal rosa al grigio. Generalmente sono pacifico come persona, quindi no, penso sia stata una serie di concause, quindi come ho scritto nel racconto, di stress, offese personali, indirette ma dirette poi fondamentalmente, quindi tutto qua. Evitai lo sbarco per cattiva condotta solo perché lui giustificò davanti al maître il suo occhio nero con un frontale su di una porta, fornendo questa spiegazione dietro minaccia di uno dei capi camerieri che erano tutti italiani. Avevo 22 anni. Ogni volta che il mio amico Giancarlo, presente sul fatto, mi ricorda la scena «Oh Massi, te lo ricordi il messicano?» ci facciamo delle grosse risate, ma è mancato davvero poco perché finisse malissimo. Quasi assassino, appunto. Ma d'altra parte, la mamma è sempre la mamma. La storia di Massimo mi ha fatto venire in mente un passaggio particolare di un libro che racconta di una settimana in crociera. Si intitola «Una cosa divertente che non farò mai più», l'ho già citato più di una volta, ma in questo passaggio l'autore, David Foster Wallace, parla proprio di chi lavora su queste navi, come ha fatto Massimo e i suoi amici, e parla della forma di gerarchia e di ordine costituito che le caratterizza. Uno però dei passaggi più interessanti è quello che riguarda l'incredibile smania del personale delle navi da crociera per la pulizia. Perché la cabina sia sempre perfetta, la puliscono e la sistemano anche più volte al giorno, non appena il cliente esce e la lascia incustodita per qualche tempo. Scrive Wallace. La sensazione non è molto diversa da quando siete ospiti a casa di qualcuno che fa cose come intrufolarsi la mattina per rifarvi il letto mentre voi siete sotto la doccia, o vi piega i panni sporchi, o li mette in lavatrice senza chiedervelo prima, vi svuota il posacenere dopo ogni sigaretta che fumate, eccetera, eccetera, eccetera. Per un po' una padrona di casa del genere vi sembra fantastica e vi sentite curati, apprezzati, rassicurati, degni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dopo un po' cominciate a intuire che la padrona di casa non si comporta così per affetto o riguardo verso di voi, ma più semplicemente obbedisce agli imperativi di qualche sua nevrosi personale, che ha a che fare con la pulizia domestica e con l'ordine. E questo significa, visto che obiettivo e oggetto finale della pulizia non siete voi, quanto la pulizia e l'ordine in sé, ecco, significa che la vostra partenza sarà per lei un sollievo. Significa che viziarvi dal punto di vista igienico, in realtà, è la prova che non vi vuole tra i piedi. La nave da crociera Nadir non ha il tappeto trattato con prodotti specifici e i mobili ricoperti di plastica, come li avrebbe una padrona di casa di tipo anale come quella descritta. Ma l'aura psicologica è la stessa, e quindi la vostra partenza susciterà lo stesso sollievo. Everyone talking, trying to get near you, hanging around your rock pool eyes. Maybe you think I'm dumb or I'm crazy, but why do you think I'm standing by your side? Can you carry me back to where I came from? Carry me back to rolling hills. All along I tried to remember why I had left, why I'm here still. Effettivamente io non vorrei litigare con Massimo, nella foto che ci ha mandato, che trovate come al solito sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina Voi Siete Qui, come ogni giorno pubblichiamo la foto di chi ci manda la storia, sembra uscito da Gomorra, la serie in onda su Sky. C'ha una giacca di pelle, un cappello nero in testa, è seduto su dei gradini e davvero ti guarda con un'aria piuttosto spaventosa. Pronto Massimo? Ciao Matteo, insomma, mi spiace, prendi con le pinze, no, prendi con le pinze quello che dico, però diciamo che questa foto, insomma, no? Uno dice, no, non è che voglia di litigare con lui. Ho scelto una foto adatta alla storia più che altro. Bravo, quindi... bravissimo, come stai? Io molto bene, grazie. Dove ti trovi adesso Massimo? Adesso mi trovo a Caronno, quindi paese dove vivo. Ma per Caronno intendiamo Caronno Pertusella. Bravo. Ah, ok, ma perché ne parlavo prima con Fabio Cantadori, dicevamo perché gli abitanti di Caronno non dicono mai Caronno Pertusella, che è il nome intero? Perché suona malissimo. Ah, ok. Ma tra l'altro, scusami, è cos'è la crasi di due paesi? Sono due paesi uniti, sì, tipo esatto. Cinisello e Balsamo. Esatto. Ok. Massimo, in origine erano due comuni separati, diciamo, due paesi separati. E com'è che un ragazzo di 20 anni, un bel giorno da Caronno Pertusella, decide di imbarcarsi sulla Pacific, no, come si chiama? Sulla Royal Princess. Perché spinto da un amico che lo faceva invece per professione, avendo fatto l'alberghiera, aveva già fatto due imbarchi, mi disse dai vieni, ci divertiamo e... Ed effettivamente io lavoravo in un'agenzia di viaggi per andare con lui. Quindi. Era Giancarlo, giusto? Era quello che ha assistito alla scena. Esatto, e quanto ci sei stato sulla nave da crociera? Ho fatto un imbarco che erano circa 7 mesi. Circa 7 mesi. Ed è dura come si racconta? È pesante perché non ci sono giorni di vacanza fondamentalmente, quindi si lavora dalle 12 alle, dipende, anche 16 ore al giorno, dipende dai turni che capitano, E non c'è un giorno libero mai? No, non c'è un giorno libero, non esiste Natale, compleanno, no, si lavora sempre. Però la paga è buona, Massimo? Adesso sono passati 20 anni, quindi okay. La paga era molto buona, perché comunque ti parlo in dollari, quando il cambio era 2200 lire, sì. Ti portavano a casa circa $5000 al mese, quindi... Ok, quindi insomma uno un po' un gruzzoletto se lo teneva da parte, via. Sì, anche perché lì immagino non si spendano soldi, no? È più o meno la solita regola. Oddio, non si spende quasi niente ovviamente a bordo, perché è vitto alloggio. Poi dipende, noi eravamo ragazzi, quindi quando si scendeva dalla nave cercavamo di godercela, ecco. Ok. Senti, arriva un messaggio che mi fa molto ridere, che dice solo ispanico. Senti, se è possibile, me la traduci la frase che lui ti dice, cinga tu madre, eccetera, eccetera? È abbastanza pesante. È un invito, diciamo, in metafora. Sì, perché è un invito, comunque un invito a, diciamo, avere un rapporto con... Ah, perfetto, diciamo, ho capito, ecco. con un genitore, esatto, in questo, quindi, nella fase di... E lì tu proprio pesante. Ci hai visto nero in quel... Sì, io ho visto nero, poi vabbè, c'è una storia dietro, sicuramente non correva buon sangue tra tra le due etnie, italiani e messicani, perché erano quelle più numerose sulla nave, perché comunque c'era un po' di gelosia da parte loro per un discorso di incarichi, di guadagni, di queste cose qui. Okay. Quindi ci si incontra tutti i giorni, un po' come militare, quindi quella era stata la goccia, certo, che ha fatto traboccare il vaso. Massimo, mi dici invece quali sono le tre domande che tu già sapevi a memoria che ti hanno fatto a Chivasso? Guarda, a Chiasso, dov'è che l'hai fatto? A Chiasso, scusami, sì, a Chivasso. Era una cosa molto divertente, perché effettivamente questo signore che si occupava dei colloqui effettivamente non guardava le persone, sulla sua scrivania teneva la testa bassa, e le tre domande in sequenza erano come si prepara il filetto alla Wellington, come si prepara una tavola, e la terza era in inglese, era semplicemente "Where did you learn English?" Okay. Per vedere il livello di inglese così. E come si prepara un filetto alla Wellington? E io adesso non me lo ricordo più, ti dico la verità, non lo sapevo allora, era una cosa che avevo imparato a memoria, tipo le poesie, e mi veniva da ridere, perché effettivamente erano quelle tre lì, erano sì, proprio quelle tre era lì. Stranissima, io non ci credevo, ma effettivamente era così, e dopo un mese mi sono trovato sull'aereo direzione New York. Ed è vero che si dorme nel terzo ponte, si sta sotto il livello dell'acqua, non ci sì, sono sì, certo, è vero. Sì, l'equipaggio sta sotto il livello dell'acqua. Adesso mi sembra che sulla RAL c'erano 12 piani praticamente, e quello dell'equipaggio era comunque sotto il livello dell'acqua. Ed è vero che non ci possono essere scambi tra i passeggeri e l'equipaggio? Perfetto, non ci potrebbero essere, poi chiaramente di nascosto ci sono. È a rischio, perché le regole sono molto ferre, sì, molto rigide, quindi si rischia di essere cacciati, tra virgolette. Ah, proprio pronti via a casa? Sì, tra una di queste diciamo infrazioni era chiaramente la rissa, infatti ho rischiato. Beh, lo immagino, insomma, che rissa, prendere a cazzotti il primo, certo, che passa non era proprio ben accetto. E poi ovviamente, come dicevi tu, non ci si poteva mischiare con i passeggeri. Ma... Quindi tu non hai limonato nemmeno con una passeggera? Io va bene Massimo, senti, non precisiamo. Io ti ringrazio per la storia, e a questo punto, visto che Carano Pertusella qua, ti aspetto il 26 di giugno qui al live. Guarda, se riesco mi prenoto, vengo volentieri. Questo è il classico, guarda, ci penso un attimo, vedo cosa da fare e te lo faccio sapere. No, guarda, ti ho sfiorato ad In Italy, ero lì. Oggi c'è, vado, sicuramente lo conosco, e poi va bene. E allora giovedì 26 giugno siamo qui, grazie mille. Grazie, ciao Massimo, ciao, grazie. 349-238-6666, a parte l'ispanico, Fabio scrive: consiglio di guardare Cane di Paglia, dove Dustin Hoffman, dopo una serie di soprusi, si vendica. Ho perso la testa, scrive Anna De Milano, quando il mio ex mi ha lasciata sparendo e senza avere il coraggio di un confronto. Ho preso il suo motorino a martellate, ma come mi sentivo bene dopo. Aggredito in Marocco nel 92, ho reagito con l'intento di ammazzarlo. Meglio non sia successo. Beh, direi di sì, Mauri. In generale meglio così. Meglio non sia successo, anche perché avrò fatto a cazzotti tre volte in vita mia, salvo ovviamente i litigi fraterni di infanzia. Io vi ricordo che noi a luglio siamo in onda e stiamo raccogliendo delle storie, questa volta riguardo dei temi, storie di mondiali, storie di guerra, ma soprattutto storie di viaggi e storie di avventure. E per avventure so che non è chiarissimo, perché l'avventura non è così presente nella nostra vita, quindi o siete Giovanni Soldini o altrimenti abbiamo tutti una vita piuttosto regolare. Ma se vi è successa una disavventura in automobile una notte d'estate e avete dovuto fare chilometri a piedi, avete incontrato qualcuno di interessante, oppure una roba tipo non last minute, quelle cose che succedono al volo e vieni salvato, salvate qualcuno, ecco, noi intendiamo quello per avventura. Se avete voglia di raccontarla, voi siete qui, @radio24.it, e noi a luglio la raccontiamo. Grazie a Fabio Cantadori, grazie a Margherita Ina, grazie ovviamente a Tiziano Bonini, grazie soprattutto a Massimo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Bernardino, vivo a Gaiole in Chianti, la storia di domani è la mia e parla di mio fratello, pensavo che fosse morto. Questa è la mia storia e io sono qui.